Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, ci risentiamo dove ci eravamo lasciati, perché proprio ieri in finale del programma ragionavamo sulla fragilità del governo, anche e soprattutto sui temi economici, dal pasticciaccio del DL Salva Roma di fine anno a quanto è successo sugli insegnanti con il botta e risposta ministro Carrozza e ministro Saccomanni. E oggi c'è un nuovo capitolo, nel senso che proprio a Radio 24 questa mattina l'ex vice sindaco di Firenze Dario Nardella, molto vicino, braccio destro di Matteo Renzi, se ne è uscito con delle dichiarazioni molto nette sul ministro Saccomanni. Ha detto: ci vorrebbe un politico, penso che sia grave quando un ministro così importante si definisce solo esecutore, quello che Saccomanni aveva detto ieri, riferendosi appunto alla retromarcia anche del governo sui 150 euro per gli insegnanti. Questo per quello che riguarda la politica, ma ce ne occuperemo anche perché sono arrivate oggi numerose reazioni e dichiarazioni al Jobs Act, quindi la proposta avanzata da Matteo Renzi sulla riforma del mercato del lavoro, tuttora in via di definizione, diviso in tre capitoli, appunto lavoro, tasse, energia. Ne parleremo nella seconda ora del programma, ma reazioni alcune favorevoli, soprattutto quella europea molto favorevole. E poi invece il commissario europeo ha detto sembra che vada nella direzione giusta, l'ha detto proprio a Roma. Era infatti il commissario europeo per il lavoro Laszlo Andor in una conferenza stampa della Commissione europea a Roma. Ma devo dire che ci sono invece critiche per quello che riguarda il senatore Brunetta. L'onorevole Brunetta ha detto che il Jobs Act sembra scritto da dilettanti allo sbaraglio. Il Movimento 5 Stelle ha detto no, meglio il reddito di cittadinanza. E avremo ospite il presidente e senatore del nuovo centrodestra Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, proprio per un commento a caldo sulle proposte avanzate da Matteo Renzi. Invece un giudizio complessivamente, se non positivo, diciamo favorevole da parte della segretaria della CGIL Susanna Camusso. Ha detto: avremmo sperato in maggiore ambizione, ma è già importante che il tema del lavoro sia tornato al centro. Favorevole anche il segretario della CISL Raffaele Bonanni, ha detto: bisogna discutere, ma tendenzialmente siamo favorevoli. Questo per quello che riguarda la politica italiana. Poi è chiaro che ci occuperemo anche della Banca Centrale Europea, che oggi nel lasciare i tassi invariati ha comunque, per voce di Mario Draghi, del suo presidente, ha specificato come le attese sull'inflazione sono fermamente ancorate, ossia non sono preoccupanti, anche se potrebbe verificarsi un periodo lungo di bassa inflazione, e ha ribadito di essere pronto a nuove misure decisive se necessario, visto che la Banca Centrale Europea tiene sotto stretto monitoraggio i mercati europei. Per quello che riguarda i mercati europei, da segnalare oggi molta incertezza in borsa. Adesso il FTSE MIB è invariato, ha perso tutto quello che guadagnava in mattinata. Parigi perde l'1%, Francoforte lo 0,90%, Londra meno 0,40%, l'America meno 0,50%, mentre tra i titoli di nuovo una forte debolezza sul settore lusso: Tod's meno 6,20%, Ferragamo meno 5,30%, Luxottica meno 1,80%. Ancora, e anche Brunello Cucinelli meno 4,43%, quindi di nuovo il settore lusso viene venduto. Molto aveva corso nel 2013, anche Safilo perde il 4,70%. Chi va invece bene, a parte il Monte dei Paschi che perde il 2,41%, sono di nuovo le banche: il Banco Popolare più 4,13%, la Pop Milano più 3%, Ubibanca più 3,20%, Mediolanum più 2,70%. E poi bene anche il gruppo Fiat più 2,13%, CNH Industrial più 2,5%, Exor, che è la controllante, del gruppo Fiat più 1,5%, chiudiamo con Tenaris che guadagna il 3,20%. Il numero per i vostri sms resta come sempre 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Un altro tema di cui ci occuperemo riguarda anche l'Assemblea regionale siciliana. Voi sapete che continuiamo da oltre un anno a monitorare, diciamo così, a raccontare quelli che sono gli sprechi della pubblica amministrazione anche a livello regionale e locale. E beh, insomma, è in pieno dibattito l'Assemblea regionale siciliana proprio sul bilancio. Ieri l'ha approvato, vale 23 miliardi. Poi il bilancio interno sono 150 milioni in calo. Oggi si attende l'approvazione della legge di stabilità della regione, una trentina di articoli da esaminare, ma in questi minuti erano arrivati solo praticamente al nono articolo, senza discutere del sesto, il settimo e l'ottavo, che verranno discussi più tardi. Altre notizie di questa giornata, dicevo, partiamo come sempre dall'estero, dove al di là della Banca Centrale Europea oggi è arrivata la notizia che in Germania è rimbalzata la produzione industriale a novembre più 2%, quasi più 1,9, un dato superiore alle attese degli analisti. In Italia il Financial Times, in un lungo articolo sulla situazione economica del nostro paese, dice: gli annunci di ripresa economica sono accolti con derisione in una Roma depressa, i disastrosi dati sull'occupazione infrangono un fragile ottimismo mentre cresce un sentimento di caos politiche. E poi descrive file di senza tetto che dormono per terra, i San Pietrini di via Marsala distrutti da una colonna di carri armati. Dice che la stazione Termine è più un campo profughi che un hub di una metropoli. E poi cita anche l'elegante via Condotti, dove le vendite nei negozi di lusso sono sostenute solamente dall'afflusso di turisti russi. Devo dire che al di là di un po' di colore britannico nel pezzo, anche i dati di oggi vanno in questa direzione. Perché? Perché l'Istat fotografa, riferito ai primi 9 mesi del 2013, un potere d'acquisto delle famiglie italiane che è calato di un altro 1,5%, nel terzo trimestre è leggermente cresciuto dello 0,2 rispetto al trimestre precedente, ma in calo rispetto all'anno prima. C'è un leggero aumento della propensione del risparmio delle famiglie, e questo starebbe a significare che c'è una difficoltà complessiva del paese, però che c'è anche una sfiducia sul futuro, cioè chi i risparmi li ha o chi potrebbe spendere preferisce risparmiare, per essere più corretti. Perché lo dico? Perché la propensione al risparmio delle famiglie italiane è cresciuta al 9,8%, toccando il livello più alto dal secondo trimestre del 2010 come propensione al risparmio. E allora, famiglie in difficoltà, e le raccontiamo da quando è iniziata questa crisi, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, non parliamo poi dei pensionati, ma anche famiglie italiane che preferiscono mettere i soldi in banca piuttosto che spendere. E qui c'è una componente più psicologica di attesa sul futuro. Quando c'è un'incertezza così forte sulle manovre, sulla ripresa vera e propria, non solo annunciata e raccontata, dell'economia, per non saperne leggere né scrivere, uno i soldi li mette appunto sul conto corrente o l'investe. Ecco il dato sul risparmio degli italiani. Un dato preoccupante invece arriva dall'Istat sul deficit nel terzo trimestre del 2013, che è salito al 3%, superiore rispetto allo stesso di 1,6 punti rispetto allo stesso periodo del 2012. Allora, nei primi 9 mesi del 2013 il rapporto tra debito e PIL è stato pari, tra indebitamento netto e PIL, cioè tra deficit e PIL, è stato pari al 3,7%. E questo è preoccupante anche perché fa il paio con il calo delle entrate nel terzo trimestre, meno 2,4%, e secondo alcuni starebbe a dire che già a marzo arriveremmo al maledetto tetto del 3% sul deficit PIL, quello che non si può sforare secondo l'Europa. Dico preoccupante perché ogni volta che sforiamo il 3% tocca fare una manovra correttiva per tornare sotto il 3%, manovra che il governo in parte aveva fatto proprio nell'ultimo pezzo di manovra, l'ultimo pezzo del 2013. Vedremo se poi in realtà con una leggera crescita del PIL questo dato sarà migliorato, altrimenti anche questo starebbe a significare una difficoltà complessiva della politica economica del governo, perché insomma è inutile continuare a ragionare di non riduzione delle tasse se poi il deficit continua ad aumentare. O vai in Europa e chiedi maggiore flessibilità sul deficit come hanno fatto Francia e Spagna, oppure devi iniziare a intraprendere un'altra strada, perché a me sembra chiaro che in questo momento il vero problema è il PIL, non il deficit. Poi si va a vedere il rapporto deficit-PIL, ma se il PIL continua a crescere in maniera così deludente o non crescere, il tuo deficit aumenta anche se spendi meno o se spendi uguale. La mitica TASI. Allora, l'accordo raggiunto ieri sera, che prevede, come avevamo anticipato, per i sindaci la possibilità di aumentare le aliquote della TASI fino allo 0,8 per mille, per quello che riguarda dello 0,1 allo 0,8 per mille, e quindi se tu lo puoi portare allo 0,8 per mille devi però, lo ha chiarito molto bene oggi il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, devi utilizzare questa addizionale sulla casa per aumentare la detrazione, quindi è vincolata alle detrazioni. Ecco perché ieri dicevamo che paradossalmente il comune che non aumenta l'aliquota a sua disposizione, magari la tiene a 0 o lo 0,1, può sembrare più virtuoso ai suoi cittadini, però è un comune che poi non avrà le detrazioni per le case più piccole, per le famiglie più numerose, mentre un comune che metterà lo 0,8 per mille teoricamente è un comune più attento alle famiglie con maggiori difficoltà, perché questa addizionale servirà a finanziare le detrazioni sulla casa. Poi certo che il problema è andare a verificare se questo 0,8 per mille lo usi veramente per le detrazioni o lo usi per i conti del comune. Ebbene, su tutto questo impianto però c'è una netta posizione dell'ANCI, dei comuni italiani, che dice resta comunque un grosso problema di minor gettito e il Parlamento deve approvare comunque la norma per evitare un rischio sui bilanci dei comuni, ma arriveranno meno soldi ai comuni. Vale la pena sottolineare che da quando è in carica il governo Letta la tassazione sulla casa è stata modificata 39 volte, 39 volte, poi uno si chiede perché abbiamo difficoltà anche noi a raccontare cosa sta capitando. E ieri sera il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha provato a giustificare le continue modifiche sulla tassazione sugli immobili in questo modo. Si è fatto secondo me un passo avanti importante nel chiarire ancora di più di prima la natura federale di questo tipo di imposizione. Gran parte dei problemi che si sono lamentati in questi ultimi mesi sono dovuti al fatto che si è intervenuti dal centro su una tassa o su forme di tassazione che sono in realtà gestite poi a livello periferico. Quindi ci sono stati problemi del conguaglio, ci sono stati problemi appunto anche di comunicazione sulle date effettive di scadenza. Siamo consapevoli che queste cose non sono tali da aumentare la popolarità del governo e del ministro delle finanze in particolare, però diciamo come ho detto poco fa in Parlamento, cerchiamo di non dimenticare che l'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU ha comportato una riduzione di imposte per 4,5 miliardi. Poi c'è stata la mini IMU che è, ripeto, un conguaglio deciso per motivi equitativi dovuto alle modalità con cui i comuni possono determinare fino a verso la fine dell'anno le aliquote effettive da pagare, quindi diciamo c'è un piccolo conguaglio. io capisco tutto, poi a me non piace sparare sulla Croce Rossa e obiettivamente il ministro Saccomanni, anche con l'uscita di ieri, adesso ascoltiamo la replica, il commento di Nardella, è in estrema difficoltà, molte voci di un Saccomanni che ieri avrebbe presentato o ventilato le sue dimissioni al Premier Letta, però tutto quello che volete, ma 39 volte, modificare 39 volte la tassazione sulla casa non si può sentire. Tra l'altro rischiano di aumentare queste volte, rischiano di diventare 40, 41, perché lo dico? Perché oggi, effetto giorno, la segretaria del partito Stefania Giannini, capogruppo alla Camera di Scelta Civica, mi riferisco, Romano e Susta, hanno chiesto che venga cambiata la TASI, altrimenti la maggioranza è a rischio, e la maggioranza si regge anche su Scelta Civica, l'ex partito di Monti, diciamo. E Stefania Giannini questa cosa l'ha ribadita appunto al nostro Simone Spezia a effetto giorno. Sicuramente siamo contrari a un aumento di una tassa e a un per sostanzialmente, al di là degli annunci giornalistici e anche del governo, per dare più liquidità ai comuni. Cioè, benissimo, i comuni sono in difficoltà, i sindaci lo dichiarano e devono assicurare ai cittadini servizi che siano a garanzia di una qualità della vita di un paese moderno e avanzato, però non è tassando e aumentando le tasse che si, no, è il solito modello tassa e spendi. Abbiamo visto nella capitale del paese che risultati ha portato, quindi mettiamo uno stop anche a questo. Così appunto il segretario del partito Stefania Giannini di Scelta Civica. Saccomanni però è, ripeto, ne parleremo anche nella seconda ora, è sotto attacco anche per quello che ha detto questa mattina a Radio 24, quello che viene considerato il braccio destro, una delle persone più vicine a Matteo Renzi. Lui si chiama Dario Nardella, l'ex vice sindaco di Firenze, era ospite questa mattina nel programma di Radio 24, Mix 24 di Giovanni Minoli, e alla domanda sull'operato del ministro Saccomanni sulla vicenda dei 150 euro, il suo giudizio è di quelli che fanno traballare le sedie. Lo facciamo sentire, è molto breve ma molto netto e chiaro. Io penso sia grave quando un ministro così importante come Saccomanni dica sono un esecutore o nessuno mi ha istruito. Io penso che il ministro dell'economia debba essere guidato da un politico, Olè, come regola generale, perché abbiamo, grazie, visto che l'esperienza dei tecnici non ha funzionato bene. Insomma, dire che al Ministero dell'Economia e Finanze ci vuole un politico significa chiedere a casa mia le dimissioni del ministro Saccomanni, insomma, non la vedo in altra maniera. E adesso arriviamo anche, vedo molti messaggi della Regione Sicilia, due notizie ancora in breve, una riguarda la Fiat e di nuovo il Financial Times oggi, che non solo si è occupato del governo, della situazione del paese italiano, ma anche della Fiat di Marchionne. Se potete, dice Financial Times, evitate di giocare a poker con Sergio Marchionne, è abile come un giocatore di poker ma è un intruso nel settore automobilistico, ha ottenuto ciò che voleva per solo 4,3 miliardi di dollari, si è portato a casa la Chrysler, ma è un intruso in quel settore, non è un ingegnere come Martin Winterton di Volkswagen, né un amministratore delegato come Alan Mulley di Ford. È piuttosto, continua il Financial Times, un negoziatore solitario che gestisce Fiat e Chrysler come un autocrate con un suo entourage. Nel frattempo il tavolo alla Fiat è, diciamo, assolutamente bloccato, il tavolo Fiat Fiom. La Fiat ha detto no alla richiesta della Fiom di un tavolo unico con tutti i sindacati, nel giorno in cui apprendiamo che la Spagna praticamente ci ha superato anche nella produzione di automobili. Mm. ha prodotto il 10% in più nel 2013, 2.200.000 autovetture, seconda solo la Germania, e che si confrontano con le sole 370.000 auto costruite in Italia. Sono quasi tutti grandi gruppi che producono in Spagna: Nissan, General Motors, Ford, Citroen, Renault, Volkswagen, Mercedes e anche Iveco. Ok, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con gli sprechi delle nostre regioni, ma non solo, perché ci tocca parlare di nuovo del ministro Saccomanni. Veramente mi dispiace sparare sulla Croce Rossa oggi. Parliamo dei 150 euro, ormai la consideriamo chiusa come vicenda, però vorremmo chiedere al ministro, che in questo momento ha altri problemi, ce ne rendiamo conto, perché ha dovuto assumere 30 tecnici informatici al Ministero dell'Economia e alle Finanze, quando esiste già una società che si chiama Sogei, che si occupa proprio di informatica? Attendiamo risposta breve, comunque giriamo tutte queste informazioni al commissario per la spending review, Carlo Cottarelli, che dovrebbe anche pagarci qualche royalty a questo punto, visto tutti i dati che gli forniamo quotidianamente. Adesso l'Assemblea regionale siciliana, l'ARS, dicevo, ha approvato il bilancio della regione. Ora notate bene che insomma non naviga in ottime acque l'Assemblea regionale siciliana, però ha approvato il bilancio ieri 23 miliardi, oggi bilancio interno 150 milioni e adesso deve approvare la legge di stabilità della regione. Dico che non naviga in buone acque perché il Parlamento della Sicilia, l'ARS come si chiama in gergo, conta 90 parlamentari, costa un sesto dell'intera Camera dei Deputati, che però ne ha 630 di parlamentari, il 90% delle spese sono considerate obbligate ed è la più costosa d'Italia. Perché? Perché la Lombardia spende 68 milioni per 80 consiglieri, quindi 5 volte in meno rispetto all'intera assemblea, in termini relativi rispetto all'assemblea siciliana. Il Piemonte spende 62 milioni, il Veneto 52 milioni, l'Emilia 32. Si confrontano con i 149 milioni del Parlamento della Sicilia. Pensate che l'Assemblea regionale siciliana spende solo per stipendi e pensioni per i dipendenti 87 milioni, ci sono 242 dipendenti in servizio che costano 37 milioni, cioè 155 mila euro pro capite. Gli eletti e gli ex consiglieri costano 40 milioni, che diventano 47 milioni con i contributi ai gruppi parlamentari. Poi spende 3 milioni di euro per le collaborazioni esterne, 900 mila euro per attività culturali e cerimonie, 1 milione di euro per la rappresentanza, 1 milione e 400 mila euro per le spese di comunicazione. Ma che deve comunicare? Comunicasse che riduce il bilancio. La caffetteria dei dipendenti parlamentari costa 800 mila euro. 800.000 euro, ha usato un'espressione molto siciliana il tecnico in regia, che è siciliano, inizia per M e finisce per Inc. Tra auto blu, pulizie e call center si pagano altri 3 milioni e 200.000 euro al parlamentino della Sicilia. In media il costo dell'attività di governo regionale in Sicilia è 3 volte superiore a quella delle regioni italiane. Eppure ieri hanno trovato 200.000 euro in più rispetto a quanto già stanziato, 800.000 euro l'anno, per salvare un ente sostanzialmente fantasma. E il governo poi manterrà in vita l'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, questo appunto l'ente fantasma che il presidente della regione Rosario Crocetta aveva annunciato di voler chiudere, dopo che la regione aveva pagato per il 2013 oltre 500.000 euro di stipendi e affitti a vuoto, visto che l'ente non è l'Arsea, non è mai diventato operativo. E sull'Arsea Crocetta ha detto che in essa confluiranno i dipendenti di alcune partecipate chiuse, potrebbe accedere ai fondi UE per pagare i lavoratori senza alcuna spesa aggiuntiva. Però già l'ex governatore Lombardo aveva promesso l'abolizione dell'agenzia, dopodiché Lombardo ne ha fatte. Nell'anno, nel 2010, in cui promette di chiudere questa agenzia, nomina il direttore dell'Arsea, Claudio Lacciti, agronomo di famiglia del presidente Lombardo, sappiamo che insomma i rapporti di parentela contano, a cui spetta uno stipendio chiamato indennità di spettò un'indennità di circa 160.000 euro l'anno. Alla faccia dell'agronomo. Nino Amadore, del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da Palermo. Buonasera, Nino. Buonasera a tutti. Allora, due domande. Ma è vero che Crocetta ha rischiato fortemente sulla sua maggioranza proprio per le pressioni che sono arrivate sul bilancio dell'ARS? Ma Crocetta è già, è stato sconfitto in aula sulla proroga dei commissari delle famose province abolite che ancora sono certo. In piedi, quindi sostanzialmente è arrivato al bilancio, alla discussione sul bilancio con una maggioranza molto fragile, con parecchi, possiamo chiamarli, franchi tiratori all'interno della maggioranza. Poi, come sempre capita, la legge finanziaria e il bilancio della regione sono, come dire, l'assalto alla diligenza, chi chiede questo, chi chiede quest'altro e chi chiede altro ancora, e dunque è facile che il governo vada sotto e ha dovuto mediare parecchio, anche appunto da chiedere l'appoggio, la responsabilità dei gruppi dell'opposizione. Ha incontrato anche i leader del nuovo centrodestra nei giorni scorsi, anche se poi loro si sono dichiarati contro, hanno detto che non avrebbero votato la finanziaria di Crocetta. Alcuni emendamenti dell'opposizione sono stati accolti e sono... minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dalla... A chi mi critica sta base, oh, ammazza. Allora, che di nuovo in collegamento con Palermo, Nino Amadore, dici una cosa. Eccoci. questa Arsea, che in Veneto vuol dire un'altra cosa, ma questa Arsea, cioè che l'agenzia regionale per il pagamento dell'agricoltura, Crocetta non la chiude perché ha avuto pressioni troppo forti, oppure non la chiude perché obiettivamente, razionalizzando i dipendenti di alcune partecipate chiuse, li mette lì dentro e potrebbe accedere ai fondi europei per pagare i lavoratori senza alcuna spesa aggiuntiva per la regione? Ma guarda, allora, in verità ha detto che la vuole chiudere, così come anche l'assessore regionale all'agricoltura. C'è stato anche il tentativo più volte dentro l'assemblea di eliminare questa agenzia che è stata istituita per legge, e all'interno ci sono delle resistenze, sono anche delle resistenze abbastanza forti che tendono a tenerla, ma cioè, da un certo punto di vista potenziarla. No, però stiamo prendendo il collegamento. Nino, dove sei? Perché ti sentiamo malissimo, io capisco la distanza, ma esci dal tunnel del ponte sullo stretto e riemergi con noi. Pronto? Eccoci, dici. Essendo un duplicato dell'agenzia. Niente, non ce la facciamo a collegarci con la Sicilia, facciamo collegamenti con tutto il mondo. Riprendiamo il collegamento con Nino Amadore, andiamo subito con la borsa, perché questa cosa qui la voglio chiarire, anche perché c'è un possibile taglio al costo della sanità di circa 7-8 miliardi. E poi una recente polemica su 50 portaborse che però sarebbero stati assunti con un contrattino da golf, così pare. La borsa, poi vediamo di collegarci con la Sicilia, più 0,34% la chiusura di Milano, meno 0,80 Parigi, meno 0,80 Francoforte, meno 0,50 Londra, meno 0,30 gli Stati Uniti. I migliori titoli, i bancari anche oggi grazie allo spread, Banca Popolare più 4,60, Pop Milano più 4, Ubibanca più 3,90 e Mediolanum più 2,60%. Poi Popolare Emilia Romagna più 2,30%, negativa invece il Monte dei Paschi, anche se ha recuperato, ha perso l'1,34%. Di nuovo male il settore del lusso, ripeto, molto era cresciuto nel 2013, Tod's meno 5,50%, Ferragamo meno 5%, Luxottica meno 1,80% e fuori dal FTSE MIB segnalo che anche Moncler oggi ha perso un altro 4,40%. Tra i titoli invece che si sono distinti, oltre ai bancari, di nuovo Mediaset più 3,50%, Tenaris più 3,14%, tutto il gruppo Fiat, Fiat più 2,60%, CNH più 2,5, Popolare Emilia, Exor più 1,80%. Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Fiat da un lato, ma anche direi che sulle banche l'archiviamo con lo spread, ad eccezione del Monte dei Paschi di Siena, e invece Mediaset. Iniziamo da Fiat, innanzitutto è stato uno dei pochi titoli industriali a muoversi positivamente, ha guadagnato il 2,5%, così come anche la sorella CNH e invece Exor, l'azionista di riferimento, ha guadagnato l'1,8% dopo qualche seduta che aveva un po' depresso il titolo sui ragionamenti, nuove strategie, convertendo in sostituzione di un aumento di capitale e in vista dell'integrazione di Chrysler. Le popolari sono state le migliori tra gli istituti di credito. C'è ancora questo giallo che riguarda il nuovo consigliere delegato alla Popolare di Milano e naturalmente qualcuno, pur non credendoci troppo, scommette sull'arrivo del Monte dei Paschi di Siena di Fabrizio Viola, che sarebbe apprezzato dal mercato. Questo è ritenuto da molti improbabili, da chi ragiona, ma da chi specula invece scommette un po' più sulla Popolare di Milano e penalizza il Monte dei Paschi comunque in un periodo abbastanza difficile per il titolo dovuto all'incertezza sull'aumento di capitale, che perde l'1,3%. Invece chi scommette forte, specula forte, forse dice qualche operatore anche in maniera esagerata rispetto ai fondamentali, è chi scommette su Mediaset più 3,5%, si ragiona ancora su questo progetto della TV a pagamento Italia-Spagna. Qualche indiscrezione di oggi relativa a molti operatori del settore interessati a entrare come partner di Mediaset, ma ricordiamo che fino a un anno fa Mediaset già cercava un partner per la Pay TV e nessuno si era fatto avanti in maniera concreta, quindi è un po' difficile ipotizzare che in qualche settimana sia cambiato completamente lo scenario, ma questo ha fatto fare più 30% a Mediaset dall'annuncio delle prime valutazioni, per cui non c'è ancora nulla di concreto, quindi vedremo se sarà una bolla o se invece saranno rumors basati sui fondamentali. Per quello che riguarda Pirelli invece, dopo l'intervista di Tronchetti Provera, appunto, in cui veniva annunciato l'abbandono dopo il 2017... Pirelli si è un po' mossa diciamo così in altalena oggi, bene questa mattina fino a più 1% e poi è arretrata piano piano, ha perso lo 0,6. Diciamo che nell'intervista a Frankfurt Allgemeine Tronchetti Provera non ha dato indicazioni particolarmente nuove, nel senso che già in occasione del piano industriale aveva detto: io guardo al 2017, per il quale ha l'accordo con i partner Clessidra, Intesa, Unicredit, dopodiché il futuro è in mano a Giove. Probabilmente l'ha ribadito in questa intervista dicendo, forse in maniera un po' più forte, che insomma il 2017 è il suo traguardo. Il mercato comunque scommette su una Pirelli con un cambiamento di azionariato importante, anche perché i soci storici generali Mediobanca, Unipol stanno riducendo le loro quote, alcune sono già usciti, e quindi è chiaro che qualcuno scommette su offerte in arrivo da parte di operatori del settore dei pneumatici che potrebbero cambiare completamente lo scenario dell'azionariato. Oddio, noi ci auguriamo sempre che tutti i gruppi italiani restino in Italia, dopodiché è il mercato bellezza, è giusto anche aprirsi ancora di più agli investimenti stranieri. Se poi gli investimenti sono italiani, com'è così? Come cuore, come bandiera, preferiamo che restino italiani. Tra i migliori titoli in assoluto, Creto Bergamasco più 8%, Sera Therapeutics più 10%, Meridia più 16%, e Zucchi, ma soprattutto Ceramica Ricchetti più 6,31%, tra i peggiori, oltre al lusso, a cui abbiamo già fatto riferimento, Screen Service Broadcast meno 6%, Invest meno 7,30%, Adventure Group meno 11,31%. Grazie Andrea Fontana. Allora, ce l'abbiamo fatta, forse siamo di nuovo in collegamento con Palermo, dove c'è appunto il nostro Nino Amadore. Nino. Allora, dicevo che molte resistenze sono in Parlamento, anche se questa volta Crocetta ci ha messo di suo dicendo che la SEA dovrà funzionare in accordo con l'AGEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, che di fatto ha svolto il lavoro in maniera concreta. L'altra idea, come spesso capita da queste parti, è quella di utilizzare i lavoratori precari che temono comunque che sono a carico della regione e smistarli verso la SEA. Crocetta ha detto che se non c'è un trasferimento di fondi dall'AGEA verso la SEA sarà chiusa e ha considerato i 200.000 euro come un finanziamento tecnico. C'è di fatto che alcune associazioni di agricoltori tengono molto a questo rapporto con un'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Ce ne faremo una ragione, però o è efficace e serve, perché ha già pagato l'anno scorso 500.000 euro di stipendi, affitti a vuoto, visto che l'ente non è mai diventato operativo. Io capisco le ragioni degli agricoltori siculi, ma 500.000 euro non si possono giustificare così. Dimmi l'ultima cosa, Nino, in attesa di discussione, se ho ben capito, ci sono i forestali, il turnover in Sicilia, ci sono 28.000 forestali, e pensate che in Canada sono 4.000, e dicevamo ieri, ma tanto il Canada non ha foreste, e i possibili tagli alla sanità. La sanità siciliana è un vero macigno, pesa tra i 7 e gli 8 miliardi. Come costi? Sì, allora, sono 100 milioni in questo momento, la discussione è in corso e c'è un taglio previsto di un centinaio di milioni per la sanità. Questo l'assessore all'economia lo ha giustificato come tagli derivanti da mancata migrazione sanitaria, cioè lui sostanzialmente ha detto questa può essere persino una buona notizia, nel senso che i siciliani si curano di più in Sicilia e vanno meno nelle altre regioni. Certo è che ora stanno riscrivendo l'emendamento, perché è una norma molto, molto dibattuta questa qui sulla sanità. Vedremo ancora, l'Arsenon non l'hanno ripreso, non hanno ripreso la discussione. La sanità è certo che è un macigno, e qui le polemiche sono sempre. Sì, le polemiche e anche gli interessi, però, Nino, perché la sanità muove interessi con la mafia. Si sono scornati, c'è stata una polemica molto forte per l'abolizione di un paio di figure di coordinatori all'interno delle strutture sanitarie, che proposta dai grillini, che comunque non volevano far passare in Parlamento. Poi è passata la norma che abolisce queste figure, destinando i soldi a portatori di handicap. Almeno quello. Vedremo, domani vi daremo conto, perché l'assemblea va per lunga nel votare la legge di stabilità. Grazie intanto a Nino Amadore in collegamento. Grazie con noi da Palermo. Save me, save me, save me. c'è qualcuno che continua a scrivere: dovete sottolineare che la Sicilia è autonoma come regione, ha statuto autonomo, statuto speciale, non può essere paragonata alle altre regioni. Posso dire una cosa? Non me ne frega nulla. Cioè, io sono per l'abolizione delle regioni a statuto autonomo, guardi, si figuri un po', compreso l'Alto Adige, che non si chiama Sud Tirolo, si chiama Alto Adige, e compreso l'Alto Adige, perché voglio dire, è vero che li utilizza bene, ma basta, basta, siamo nel 2014, abbiamo l'euro ancora con le regioni a statuto autonomo, poi bisogna tutelare le minoranze linguistiche, ma ci mancherebbe, a scuola, dovunque, ma basta con gli italiani che pagano le regioni a statuto autonomo, anche perché non c'entra il confine, no? E quindi eliminiamo pure quelle, chi se ne frega delle resistenze di partiti localistici. Dalle nostre, no, una nota la devo dare prima di collegarmi con Francoforte, speriamo che non sentano né a Francoforte né a Berlino, perché i 28.000 forestali siciliani, pensate che la Lombardia ne ha 500 di forestali, il Piemonte 400, sono regioni notoriamente senza montagne. E raccontavamo l'altro ieri che a Solarino, su 9.000 abitanti in provincia di Siracusa, i forestali sono 437, cioè nel paese di Solarino ci sono tanti forestali quanto in tutta la Lombardia o Piemonte. E a Godrano, in provincia di Palermo, su 1.000 abitanti 190 sono forestali. Non è che veramente i sette nani, compresi il sindaco, alcuni assessori e i consiglieri, e Biancaneve manca all'appello proprio. Comunque i forestali siciliani impiegati a tempo determinato sono solo 800. Poi ci sono però 22.000 precari che dipendono dall'assessorato all'agricoltura e 8.000 dipendenti dell'assessorato al territorio, arriviamo a 30.000. Questi lavorano 6 mesi all'anno, da giugno a dicembre, e guadagnano 1.200 euro al mese, pagati dalla regione. Poi negli altri 6 mesi sono a carico dell'INPS. Totale, la regione spende 500 milioni l'anno e altri 200 milioni di euro li spende l'INPS. Mario Draghi, così mi rimetto il buon umore, Mario Draghi, quanto mi piace il suo inglese, lo dico prima di ascoltarlo ancora, sulla situazione economica dell'area euro. Per ciò che riguarda l'attività economica, gli indicatori disponibili fino a dicembre sono migliorati dai livelli minimi e segnalano una ripresa continua, anche se graduale. Guardando al 2014 e al 2015, ci aspettiamo una ripresa dell'economia anche se a un ritmo lento, in particolare grazie a un miglioramento della domanda interna e dal sostegno della politica monetaria accomodante. L'economia dell'area euro dovrebbe anche beneficiare del graduale aumento dell'export. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso del cosiddetto Jobs Act. E al di là del nome, lo sapete, non ci piace che sia questo inglesismo, chiamiamola legge sul lavoro. Allora, ieri è arrivato il documento, ancora in via di definizione, però il documento di Matteo Renzi sulla riforma del mercato del lavoro, diviso in tre parti e poi in vari capitoli. Per semplificare, c'è la parte più grossa, più corposa, che riguarda il lavoro, quindi la riduzione di varie forme contrattuali, dicono i renziani oggi sono più di 40, progressiva applicazione di un contratto unico a tutele crescenti, quindi sostanzialmente uno entra con un contratto flessibile e poi va via via a irrigidirsi questo contratto più sta in quel luogo di lavoro. È una via di mezzo tra la proposta Ichino, se non ricordo male, e la proposta Boeri. Poi la presentazione di un codice del lavoro che semplifichi la normativa attuale e poi due voci che riguardano, una i sindacati, l'altra la Confindustria e gli industriali. Per i sindacati una nuova legge sulla rappresentatività sindacale con presenza di sindacalisti eletti direttamente dai lavoratori nei consigli di amministrazione delle grandi aziende, qualcosa che ricalca un po' il modello tedesco, quindi dentro i CDA dei grandi gruppi, delle grandi aziende, nella proposta vi dovrebbe essere la presenza di sindacalisti eletti direttamente dai lavoratori. Per quello che riguarda le imprese, invece, la diminuzione del carico fiscale sul lavoro fino al 10% di IRAP in meno, più ai lavoratori dipendenti, più assumi, più si riduce l'IRAP, da finanziare con la revisione della spesa pubblica e probabilmente, qui è più vago il documento, con inasprimenti per chi si muove in ambito finanziario, che anche qui non capiamo se sia una Tobin tax su base nazionale o che cosa, una tassazione sulle rendite finanziarie, sulle transazioni finanziarie. Qui c'è un po' di vaghezza, forse non solo qui, Ancora poi assegno universale unico per chi perde il lavoro, anche per chi oggi non ne avrebbe diritto, condizionato però alla partecipazione ai corsi di formazione. Poi un'agenzia federale unica che coordini e indirizzi i centri per l'impiego e la formazione e l'erogazione. E poi piani specifici per aumentare l'occupazione in singoli macro settori: cultura, turismo, agricoltura, cibo, made in Italy, ICT e quant'altro. Le reazioni, partiamo dalla più importante, quella che è arrivata dalla Commissione Europea per voce del Commissario Europeo per il Lavoro, Laszlo Andor, al microfono della nostra Anna Migliorati. Per quanto ne so, si tratta comunque di work in progress, di un qualcosa ancora in divenire. Naturalmente però sembra esserci un nuovo impulso, un nuovo impeto appunto per tornare a parlare della riforma del mercato del lavoro. Da tempo ormai la Commissione Europea sta incoraggiando il governo a parlare appunto di queste possibili riforme che possono rendere il mercato del lavoro in Italia più dinamico e più inclusivo. And we can only welcome proposals to that direction. Il 2014 sarà l'anno delle elezioni europee. Il lavoro sarà un tema centrale, che ne pensa? Credo che la disoccupazione sia il problema più serio, più drammatico che l'Unione Europea deve affrontare di questi tempi. Certo, le discussioni sono importanti, ma sono ancora più importanti le azioni che seguiranno le discussioni. Focus on this in the coming period. Quindi, secondo la Commissione Europea, va nella direzione auspicata, pur essendo appunto un work in progress, tutti che usano gli inglesismi, pur essendo dei lavori ancora in corso. Sì, lui in effetti poteva usarli perché è commissario europeo, Laszlo Andor. Non li deve usare Renzi, chiamala legge sul lavoro, non so più come dirlo. Invece più scettici 5 Stelle, perché Taverna, Paola Taverna, capogruppo al Senato del 5 Stelle, ha detto ma insomma alcune parti sono condivisibili dal punto di vista teorico, però aspettiamo i fatti, noi restiamo per il reddito di cittadinanza. Il presidente dei deputati di Forza Italia, Brunetta, molto duro invece, il Jobs Act sembra scritto da dilettanti allo sbaraglio. Il testo sembra scritto da dilettanti allo sbaraglio, un po' furbetti, un po' opportunisti, sicuramente molto pasticcioni, che a un certo punto si sono dovuti fermare perché non riuscivano ad andare avanti e hanno aperto il documento a contributi esterni perché da soli non riuscivano a riempirlo. I sindacati invece abbastanza favorevoli, il leader della CGIL Susanna Camusso dice siamo favorevoli, salutiamo con favore un dibattito che parte finalmente dal lavoro, avremmo sperato in maggiore ambizione però, e invece il segretario della CISL Bonanni ha detto bisogna discutere ma siamo tendenzialmente favorevoli. Allora parliamone con chi ha avuto il dicastero, il ministro del welfare, come si chiamava al tempo, nonché attualmente presidente dei senatori del nuovo centrodestra, senatore Maurizio Sacconi, buonasera. Buonasera. Allora, leggevo prima le varie reazioni, insomma, molto critico il presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta, sembra scritto da dilettanti allo sbaraglio, abbastanza favorevole la CGIL, finalmente c'è un dibattito, non è quello che ci aspettavamo, avrei sperato in maggiore ambizione, e anche Bonanni, leader della CISL, bisogna discutere ma siamo favorevoli a quello che è stato presentato. I 5 Stelle invece dicono meglio il reddito di cittadinanza, l'ha detto Paolo Taverna, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Un suo primo giudizio sia politico ma anche diciamo di contenuti, visto che appunto lei ha avuto per molti anni la delega proprio al Ministero del Lavoro, si chiamava welfare a quel tempo. Vede, la considerazione che facciamo nello stesso senso io e l'onorevole Netta discende dalla nostra scuola, dalle nostre esperienze, che cioè il lavoro si fa con buone regole, regole semplici e certe, mentre nella prima ipotesi di piano del lavoro proposta da Renzi ci sarebbe un ulteriore irrigidimento delle regole sul lavoro. Non è vero che in Italia ci sono 40 tipologie contrattuali, non è vero proprio, perché se gliele chiedo lei non me le sa dire. Ci sono 4-5 tipologie contrattuali, tutte necessarie, che poi devono adattarsi alle concrete circostanze delle imprese attraverso accordi aziendali e accordi anche individuali, quando il lavoratore è assistito e il contratto individuale certificato. Questa è la nostra convinzione. Non ha senso, che so io, cancellare l'apprendistato o i contratti a termine o i contratti a orario modulato, che consentono proprio l'incontro tra le esigenze del lavoratore e dell'impresa sui tempi di lavoro, affinché siano poi compatibili con tempi di famiglia e con le esigenze di efficienza dell'impresa. Non ha senso pensare di eliminare la somministrazione di lavoro. Sono tutti modi con i quali i lavoratori entrano nel mercato del lavoro in un tempo soprattutto di aspettative incerte. In cambio cosa si farebbe? L'aumento del periodo di prova, magari con l'obbligo formativo, per poi mantenere l'articolo 18 che purtroppo costituisce una pesante inibizione ad assumere, ancor più in un tempo come questo di aspettative incerte. Quindi lo scambio tra la cancellazione di alcune tipologie contrattuali che in molti ambiti del nostro sistema produttivo di beni come di servizi sono necessarie, con un timido allungamento del periodo di prova, non mi sembra proprio un passo avanti, sarebbe un ulteriore passo indietro dopo il disastro prodotto dalla legge Fornero. Tutto il resto sono belle promesse, perché tutti siamo d'accordo a ridurre il costo dell'energia, a ridurre il costo del lavoro, e come al solito il problema è quello di trovare le risorse per fare queste cose. Ecco, restiamo ancora un istante sulla tipologia di contratto e poi anche sugli altri aspetti. Quindi lei dice il contratto unico a tutele crescenti, come l'ha chiamato Renzi appunto nel Jobs Act, andrebbe a irrigidire, in realtà semplificando troppo, se ho ben capito, quelle che sono le forme contrattuali. Non la convince però neanche l'ipotesi che si possa entrare, la dico in maniera un po' semplicistica, flessibili per poi essere sempre più tutelati con contratti più rigidi nel corso del tempo, dell'esperienza lavorativa? Perdoni, lei chiama tutela progressiva un contratto che cambierebbe solo per un piccolo allungamento del periodo di prova, che non è un'esigenza primaria, perché esistono anche i contratti a termine ed è bene che rimangano, nell'ambito dei quali viene sperimentata la capacità di una persona. Non sarebbe questa una novità? E d'altronde quello che chiama contratto a tutele crescenti manterrebbe tutto l'attuale assetto dell'articolo 18. Quindi dov'è la novità? Sarebbe solo il passaggio da 6 mesi a 1 anno del periodo di prova? Sarebbe questa la novità? E questa è la novità in base alla quale cancellare tipologie contrattuali necessarie, come il contratto a termine o come il contratto di apprendistato, che invece esso sì è un contratto a tutela progressiva, perché dopo la prima fase formativa continuerebbe in un rapporto a tempo indeterminato, ed è così necessario per i nostri giovani perché integra le fragili competenze che hanno avuto da un sistema educativo le cui inefficienze sono purtroppo note. Quindi le dice non creerebbe più flessibilità, anzi andrebbe a irrigidire con più rigidità. Questa ipotesi farebbe più rigidità, non a caso l'ha già criticata anche Ichino, la critica di un economista del lavoro come Renato Brunetta, prima ancora che un parlamentare, è molto significativa, come è significativo il consenso vero che è della sola CGIL. L'unico soggetto sindacale che finora si è davvero pronunciato, al di là dell'attenzione dichiarata dal segretario della CISL, ma il vero consenso è del segretario della CGIL, che dice: ah, noi da sempre chiediamo di cancellare alcune tipologie contrattuali. Mi sembra che sia molto emblematico, ecco, il fatto che la CGIL sia l'unico soggetto d'accordo. D'altronde poi non cosa dire delle imprese alle quali si chiederebbe di sostenere con maggiori contributi un'indennità di carattere universale, come è stata definita, o alle quali si chiede di regolare per legge il modo di eleggere i rappresentanti dei lavoratori con tutto il contenzioso che ne nascerebbe, e addirittura di farli entrare nei consigli di amministrazione delle imprese in forma necessità obbligata, ma ci manca solo quello per far scappare dall'Italia investitori internazionali. Sì, anche se le dice le grandi aziende, ma ho capito la critica che le muove. Quindi quali? Chi sono le grandi? Dove sono le grandi? E dove sono le grandi imprese che in Italia con fatica quelle poche si sono prodotte proprio per le tante rigidità che crescendo le imprese italiane incontrano? Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Vedo che molti dicono: ma perché invitate chi ha fatto? Invitiamo tutti, anche chi ha avuto responsabilità di governo, come il senatore Sacconi, ministro del welfare, e poi ognuno fa le sue valutazioni, ognuno dà le valutazioni sul governo Berlusconi di allora, sul governo Monti, riforma Fornero che voi appoggiaste, e anche sulla proposta di Renzi. Mi dica una cosa però, senatore Sacconi, insomma, questa proposta di Renzi, il Jobs Act, piace solo alla CGIL? Sembra, per quello che ne conosciamo, che piace, che interessa quantomeno la titolazione alla sola CGIL. Sembra che abbia trovato grandi entusiasti consensi altrove. Ecco, sul giudizio sulla presenza diretta degli eletti, dei lavoratori nel CDA, delle grandi aziende, lei me l'ha già dato. Sulla riduzione del carico fiscale sul lavoro, cioè progressiva più il numero di occupati fino a un 10% di IRAP in meno? Siamo nell'ovvietà, ridurre il peso fiscale sul lavoro, siamo tutti d'accordo. La sfida del governo Letta di quest'anno è proprio quello di fare taglio delle spese delle pubbliche amministrazioni e trasferirlo sulla riduzione del peso fiscale sul lavoro. Questo è l'obiettivo che ci siamo tutti dati, e questa non è una novità, è l'impegno comune che abbiamo come maggioranza. Un'ultima notizia invece e commento su quello che sta succedendo nel governo, perché è chiaro che questo Jobs Act è un ulteriore act, mi faccio fare gioco di parole, del peraltro sarebbero words, sarebbero sì, parole, sì, però, no, il gioco di... a meno che non sia la old soup, la vecchia minestra. Lei dice che è un jobs word, vabbè, ma parliamo in italiano e vediamo di capirci se possiamo passare dalle parole alle decisioni. Ecco, su questo però la direzione che dovrebbe prendere, diciamo, una eventuale riforma del mercato del lavoro o miglioria, dove dovrebbe andare secondo lei? La direzione del mercato del lavoro, della riforma del mercato del lavoro, deve essere quella di fare lavoro, cioè ascoltare le ragioni degli imprenditori, non come fece la Fornero, che fece una legge con il parere contrario di tutte le associazioni delle imprese italiane, dal commercio all'artigianato, all'agricoltura, all'industria. E così deve fare il governo, ascoltare quelli che il lavoro lo fanno, quelli che il lavoro lo costruiscono intraprendendo. Ascoltare loro, le loro ragioni, e sulla base delle loro ragioni riformare il mercato del lavoro per incoraggiare la propensione ad assumere anziché disincentivarla con regole rigide. Ecco, dicevo che questo è l'ultimo atto, questa proposta, di un atteggiamento da molto definito incalzante del neo segretario del PD, e che ha messo, sempre secondo molti osservatori, in fibrillazione il governo Letta. Questa mattina, ospite di Giovanni Minoli, l'ex vice sindaco di Firenze, quindi uomo braccio destro considerato di Renzi, e mi riferisco a Dario Nardella, ha dato un giudizio molto netto su quello che dovrebbe fare il ministro Saccomanni, e cioè lo ha invitato sostanzialmente a dimettersi perché ci vuole una figura di carattere più politico. Le faccio ascoltare questo brevissimo passaggio. Io penso sia grave quando un ministro così importante come Saccomanni dica sono un esecutore o nessuno mi ha istruito. Io penso che il ministro dell'economia debba essere guidato da un politico, Ole, come regola generale, perché abbiamo visto che l'esperienza dei tecnici non ha funzionato bene. Allora, senatore Sacconi, balla, traballa il ministro Saccomanni? No, anche perché vede, stiamo assistendo da tempo ad atteggiamenti di questo tipo. Un esponente del Partito Democratico, vicino al segretario del Partito Democratico, fa queste dichiarazioni, ma poco dopo le corregge, come ha fatto, dicendo: io per carità non ho chiesto le dimissioni del Ministro dell'Economia. Se questa è la nuova politica, quella cioè di dire una cosa e poi smentirla poco dopo, ma in questo modo aggiungendo fibrillazione ad una, ad un paese che invece chiede stabilità, che sta avendo un po' di dividendi dalla stabilità, come vediamo nella riduzione del costo del collocamento del debito pubblico. Insomma, i partiti di governo devono avere responsabilità, devono essere responsabili degli atti del governo al quale partecipano, al quale concorrono. In questo caso il ministro Saccomanni, quando si dice esecutore, si riferisce alla legge. C'era una legge del governo Monti che diceva: se il Ministero dell'Istruzione non fa determinati tagli, a un certo punto scatta il taglio dei 150 degli aumenti, euro famosi, degli incrementi automatici. Bene, il ministro Saccomanni credo avesse sollecitato il ministro dell'Istruzione a fare quei tagli, non avendo rifatti si è trovato ad eseguire una legge che oltretutto non era neanche del suo governo, ma era del governo precedente, che tuttavia era in vigore. Ecco, ciascuno si prenda le proprie responsabilità. Cioè, secondo lei, Nardella vale non solo per i ministri, ma vale anche per i rappresentanti dei partiti che sostengono il governo. Quindi, secondo lei, Nardella sta facendo vecchia politica, al di là dell'età? È una vecchia politica quella delle dichiarazioni continue che dicono e non dicono, e che comunque affievoliscono la credibilità del governo che pure si dichiara di voler sostenere. Però onestamente non noto una fragilità nel governo Letta, cioè tra il DL Salva Roma, il modo, quello che è successo tra Natale e Capodanno, il ritiro del disegno di legge, tutto un insieme di marce indietro, anche per alcuni di brutte figure. Adesso il ministro Saccomanni, lo scaricabarile con il ministro Carrozza ieri, non c'è una fibrillazione, visto che lei è esponente di primo piano, presidente dei senatori del nuovo centrodestra, di un partito cruciale nell'appoggiare il governo Letta, lei non nota un aumento della fibrillazione se non della fragilità stessa? Sì, lo noto soprattutto da quando è stato cambiato il segretario del Partito Democratico, il quale peraltro dichiara contemporaneamente di non volere mettere in crisi questo governo, salvo ogni giorno porre problemi a questo governo. Io credo che il governo abbia una implicita fragilità nel fatto che è sostenuto da una maggioranza degli opposti, cioè nel senso che nacque con questa consapevolezza che in questa legislatura non sarebbe stato possibile altro se non il governo partecipato dalle opposte coalizioni. Questo governo ha un compito a termine che riguarda solo il 2014. In questo anno deve favorire le riforme istituzionali, in particolare quella della legge elettorale e quella del connesso bicameralismo, da un lato, e dall'altra ha il dovere di compiere alcuni atti che possano accompagnare l'Italia in una stagione che potrebbe essere di crescita, e di crescita con occupazione, di crescita probabilmente ancora contenuta, ma pur sempre di crescita e con occupazione. Dedichiamoci a cercare il comune denominatore piuttosto che utilizzare questo anno come una sorta di periodo di campagna elettorale permanente. Grazie, grazie al presidente dei senatori del nuovo centrodestra Maurizio Sacconi. Grazie, arrivederci. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Una sola nota a chi dice: non dovete invitare chi ha già governato, chi è già stato nella maggioranza di governo. Vabbè, a questo punto non invitiamo praticamente nessuno. È chiaro che poi ogni elettore dà il suo giudizio, anche all'ex ministro Sacconi, attualmente senatore Sacconi, sulla base di quello che ha fatto allora il governo Berlusconi. Insomma, questo va bene, ma non è che non si può invitare nessuno di quelli che hanno fatto precedentemente parte delle maggioranze di governo. Detto ciò, domani alle 17 un'altra puntata di Focus Economia. Per ora, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.